possiamo praticare una respirazione molto efficace di armonizzazione, di canalizzazione di quell'energia che muoviamo con le posture. La base della nostra respirazione è sempre il respiro diaframmatico, dunque possiamo in qualunque posizione siamo cercare di allineare la nostra colonna vertebrale, cercare di equilibrare bene il nostro capo e cercare di rilassare il corpo, dunque sentire che per quanto possibile mentre respiriamo cercando di muovere bene l'area dell'ombelico, dello stomaco, di lasciare che il respiro fluisca senza sforzo. E mentre respiriamo possiamo metterci in contatto con la sensazione del flusso attraverso le narici e lasciare che questo flusso sia sempre più sottile, fluido, regolare, equilibrato tra inspirazione ed espirazione. E ora ci prepariamo a utilizzare la nostra mano destra per modulare il flusso nelle narici e dunque produrre un respiro a narici alterne. Posizioniamo la nostra mano destra in modo da appoggiare l'indice e il medio al centro tra le sopracciglia e appoggiare il pollice sulla narice destra e le ultime due dita sulla narice sinistra, ancora senza chiuderle. Sentiamo il flusso, rilassiamo il volto, ora inspiriamo con entrambe le narici, chiudiamo delicatamente la narice sinistra, espiriamo attraverso la narice destra, lentamente, inspiriamo attraverso la stessa narice e di nuovo espiriamo attraverso la destra, inspiriamo lentamente attraverso la narice destra, per un'ultima volta ancora espiriamo dalla destra e inspiriamo dalla destra, ora chiudiamo delicatamente la narice destra con il pollice, liberiamo la sinistra, espiriamo dalla narice sinistra, senza sforzo, lasciamo andare. Inspiriamo dalla narice sinistra e di nuovo espiriamo dalla sinistra ed inspiriamo dalla narice sinistra un'ultima volta. Espiriamo dalla sinistra e lentamente inspiriamo. Liberiamo ora le narici con entrambe. Tre volte espiriamo ed inspiriamo e sentiamo questo flusso più presente, sottile, come se si unificasse al centro lungo il setto nasale, come un flusso che dalla base del naso tra le narici arriva fino al centro tra le sopracciglia, in uno spazio breve ma infinito allo stesso tempo. Un flusso sempre più sottile. E ci ascoltiamo. Semplicemente siamo nel nostro respiro, completamente. La posizione è sempre la medesima, cioè proviamo a stare con il capo, il collo e il tronco in allineamento, quindi se siamo seduti su una sedia con la schiena diritta, ovunque ci troviamo possiamo trovare questa attitudine corporea allineata. Respiriamo diaframmaticamente muovendo il centro dell'ombelico in modo fluido e continuo. Ora portiamo l'attenzione allo spazio della mente. Visualizziamo come un grande cielo, il cielo della mente, più vasto del cielo fisico, e lungo questo cielo, sull'orizzonte, osserviamo con l'occhio della mente, con la vista interiore, scorrere una piccola nuvola bianca da un angolo all'altro di questo cielo infinito e perdersi lentamente oltre l'ultimo orizzonte. E ciò che resta è cielo. E un istante di respiro e di nuovo un'altra piccola nuvola bianca attraversa l'orizzonte, la osserviamo scorrere lentamente e perdersi lentamente oltre l'ultimo orizzonte. E ciò che resta è cielo, infinito cielo, spazio infinito.